Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io ho iniziato con una storia un po' particolare, no? Oltretutto che essere laureato sembrava che le cose andassero abbastanza bene. Comunque sono un ragazzo che appartiene anche a una famiglia abbastanza colta, mio padre è un ingegnere, mia madre è un'avvocatessa, però mi sono dato un po' i vizi, no? Tipo la cocaina e l'eroina. Poi vabbè, ho seguito assistenti sociali, ho avuto problemi anche carcerari, che i miei genitori non mi volevano più in casa e tutto il resto. Poi crescendo, maturando, mi sono allontanato da casa, ma puoi immaginare. Anzi, i miei oggi, tutt'oggi, non sanno neanche che sono in strada. Ho visto gente morire. Solitamente, quando ci avviciniamo a Natale, tutti parlano dei poveretti, dei senza tetto, dei senza fissa dimora. Io anticipo di qualche giorno, non perché voglio entrare nel clima natalizio, perché in questi giorni sto osservando qualcosa che vedo, ma osservo con più attenzione da qualche giorno, ma anche chi lavora con me. Questa mattina Fabrizio Intonti mi ha raccontato, sai, tornando a casa ieri, sotto le frasche dei giardini di Colle Oppio, per chi non è romano, è proprio a vista del Colosseo, quindi una delle zone più visibili di Roma, mi sono accorto c'era del movimento, sono andato a vedere, c'era proprio una vera e propria baraccopoli, come fosse una favela, costruita coi bancali, ma bassa, come un pollaio, altezza mezzo metro, era piena di gente che dormiva, di notte, davanti al Colosseo, nel centro di Roma, nel posto più visibile della città, c'è della gente che dorme, c'è una popolazione di gente addormentata. Io posso riferire che la stessa cosa avviene alla stazione Termini, non è mai stata piena così di persone. Mi scapita spesso di prendere il treno che parte alle 6 da Roma, quindi alle 5 e mezzo sono alla stazione. Beh, ci sono decine e decine e decine di persone che dormono ovunque, fuori, dentro, ma durante il giorno scompaiono, ma la notte ci sono. Lungo le mura aureliane, l'apice di via Veneto, la via della dolce vita, ci sono dei sottopassaggi pedonali. Anni fa ci morì bruciata una persona. Oggi sono dei dormitori, sono proprio i letti, le brandine, un odore che non ve lo so dire. Un'altra popolazione di persone vive lì. Negli argini del Tevere non ve ne parlo. Se andate in bicicletta lungo gli argini del Tevere vi accorgete che lungo il Tevere esistono proprio una vera e propria popolazione, una città nella città. Sono persone con baracche ormai quasi stabili, costruite quasi stabilmente. La stessa cosa avviene a Piazzale Clodio, dove sta il Palazzo di Giustizia. Ogni mattina escono fuori frotte di persone, decine e decine di persone che ormai da anni vivono in mezzo al parco di Montemario, con baracche, tende, e poi molto freddo, piove, uno immagina che non è proprio una vita divertente. Beh, io questa mattina, prima di darvi dati che ho già anticipato al giornale radio, sull'incremento di persone senza fissa dimora, il 21% secondo l'osservatorio diocesano della Caritas Ambrosiana, il 21% rispetto all'anno prima, ci sono il 21% di persone che dormono per strada. Volevo chiedere a chi mi ascolta, mi raccontate nelle vostre città dove e in che percentuale e in che maniera la gente dorme per strada. Perché è facile dirlo a Roma, che è una città sotto gli occhi di tutti, ogni giorno si parla del degrado di Roma. Vorrei capire se anche in altre città c'è gente che dorme per strada, ci sono i senza fissa dimora. Dove dormono, in che maniera dormono, quanti sono? Aiutatemi a fare questa mappa. So che non è un indicatore certo quello del pubblico della radio, però vorrei capire questa mattina, anche in città che normalmente delle quali si parla poco, quante persone dormono e non hanno casa. A tra poco, 800 24 00 24. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Lavoravo in albergo. E da quanto tempo non lavora più? Nel 93. Non ha una pensione, nulla? Ah sì, ma è poca. Basta un attimo per diventare un barbone, o quel che più elegantemente si definisce un clochard, una persona senza fissa dimora. Lavoravo in santuario di Divino Amore, a Pomezia. Poi cosa è successo? Niente, ho litigato a casa e sono stato. Non ho documenti e nemmeno soldi, dunque sono costretta a dormire in strada. Sono una cittadina tedesca. I think 5-6 o'clock I would have come here. Vengo qui intorno alle 6 di pomeriggio. Mi scrive il solito ascoltatore: benvenuto sulla terra, ma dove vivi? Facile fare lo snob. Mauro da Bergamo, non ho mai fatto lo snob. Osservo tante cose e per una serie di circostanze oggi ho osservato questa. Ne aggiungo un altro episodio. Questa mattina sono andato a Piazza della Repubblica dalle solite mie farmaciste di fiducia. Mi hanno raccontato che era per entrata una donna senza fissa dimora che vive in quella zona lì, la vedo spesso sotto i portici di Piazza Esedra, e si era comprato creme per la pelle per 50 euro. Loro erano rimaste un po' perplessi, ma sicura signora? Sì, sì, ha tirato fuori i soldi. Poi è ritornata a vivere nel suo angolino sotto il colonnato di Piazza Esedra. Poi si è comprata delle creme per la pelle molto raffinate. Evidentemente aveva un ricordo di fasti passati e quindi non rinuncia a tante cose, ma non rinuncia alla sua crema preferita. Sono inspiegabili incongruenze, non si capisce bene. Le priorità non sta a noi dirle. Quelle che si danno quando si trova senza nulla. Essere senza nulla probabilmente significa, come per quella signora, privilegiare qualcosa che per lei è molto importante. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Chiamo da Genova. Ti ringrazio dell'opportunità che mi dai. Io sono diplomato, biennio universitario. Da un anno e mezzo è mancata mia madre. Ero già reddito di mia madre, del reddito unico della pensione, tra invalidità, insomma stavamo bene, è mancata mia madre, non ho più una casa, vivo in un camper, fortunatamente avevo una vecchia moto, l'ho venduta, un camper bruciato, me lo sono messo a posto, quindi un 59enne, sono andato tra l'altro, una degli ultimi scherzetti di Renzi, sono andato in via Cesarea a Genova, dall'ufficio del Match Lavoro della Liguria, e quindi non c'è manco più ogni sei mesi da rinnovare il famoso timbro, no? Per essere iscritto. Quindi è tutta una riforma, chiamano loro. Ma tu adesso dove sei? Dentro il camper? Io sono dentro al camper, di notte quando fa freddo, finora ho toccato anche i 10 gradi, 8 gradi, perché la settimana scorsa faceva freddo, insomma c'è l'allerta meteo nella Liguria. Quindi perché la casa dove stavi con tua madre era in affitto? Niente, eravamo in affitto, quindi ho curato mia mamma, ho fatto risparmiare perché io ho fatto anche un biennio universitario, quindi il mio unico ultimo lavoro di un anno e mezzo fa mi davano in una cooperativa, ho fatto la guardia giurata non armata, in un grosso centro commerciale di Genova con due sedi a Campi in Piazza Vittoria, 5,50 euro lordi all'ora, quindi un diplomato che manco se andassi fosse in Cina guadagnerei di più, forse se fossi in cinese, è pazzesco. E quindi adesso cosa fai te? Che lavoro vado fai? A prendere i pacchi viveri a due o tre centri, perché danno in un centro i singoli posti dove ho scoperto, perché nessuno mi ha aiutato, diciamo, poca gente, quindi a scoprire questi punti dove danno i pacchi viveri. Quindi tu adesso a tutti gli effetti, Massimo, sei entrato nella mentalità del quasi senza dimora, vive certo, con i pacchi viveri. Pazzesco, un genovese che ha studiato, anche mio padre era un ex dirigente della Telecom, della SIP, quando sembra SIP Teti a Genova, quindi mancato mio padre 40 anni fa, ho dovuto interrompere gli studi in università. Non ho finito. Ma come passi la giornata? Sono curioso, scusa. Niente, io passo nel camper, diciamo che la... ogni tanto una persona mi dà una mano, il centro d'ascolto mi paga, non so, i 30 euro della bombola del campo, perché se accende ci vuole il gasolio per riscaldarlo, se accende i fornelli ci vuole la bombola che costa 35 euro, quindi è pazzesco, poi non ho una lira, cioè mi passano le aspirine, mi mandano in una farmacia a prendere l'aspirina se mi prendo mal di gola, insomma, fortunatamente la salute fin quando... Quindi Massimo, mi ci fai capire che il passaggio da una condizione di vita normale, anche se modesta, se stiracchiata come quelle di molte persone, come di molti di noi, a una condizione che si è proprio sulla soglia di andare a vivere in quei pollai che descriveva Intonti questa mattina, fatti con i bancali e i giornali vecchi sotto i cespugli e strade, un attimo, a me appunto in un anno e mezzo che è mancata mia madre ho scoperto un mondo incredibile, ho dormito anche, perché prima di quando ho messo in vendita la moto per comprarmi un camper avevo dato un piccolo acconto di 50-100 euro, il camper bruciato a 1000 euro non li avevo, quindi ho dovuto aspettare, ho dormito fuori da una stazione, quindi qui a Quarto. Ma non avevi un parente, non avevi nessuno che ti ospitasse? No, non ho più nessuno, poi parenti e amici nei momenti duri spariscono tutti e fortunatamente c'ho una mia compagna, che anche lei, però non siamo una coppia di fatto e non posso vivere da lei, quindi anche lei ha i suoi problemi familiari, salute di sua mamma anziana, quindi... È una tua compagna che però non potete vivere assieme, tu vivi nel camper, è la casa sua. Non ce la farebbe a mantenermi, quindi anche avvilente, avessi anche io farei anche qualsiasi lavoro socialmente utile, qualcosa. Poi mi sono messo, come avete un'altra trasmissione che dicevo sempre, un colpo d'ala. Io domani o dopo vado dal difensore civico di Genova e c'è un avvocato di un centro d'ascolto, quindi farò o una class action o qualcosa, denuncerò questo mio stato, perché visto che la Costituzione prevede che una persona che quando lavorava ha versato una cosa o l'altra, italiano, incensurato, abbandonato così. Ma tu sei, diciamo, inabile al lavoro? Volendo potresti lavorare? No, assolutamente abilissimo. Un anno e mezzo fa ero guardia giurata non armata, quindi in un grosso centro. In teoria, se tu avessi un lavoro potresti ricominciare. Ma io farei qualsiasi cosa, perché 5,50 euro, quindi sono 3,80 euro, 3,50 euro, anche ha chiamato l'altro giorno uno che guadagna 3,50 euro, quindi va benissimo, però è anche dignitoso, una persona gli passa il tempo, si fa qualcosa, quindi io poi non si può stare in strada senza assicurazione, quindi ho fatto lavapiatti e in un ristorante per 15 giorni, mi sono pagati 6 mesi di assicurazione. Poi Massimo, fermo lì, sì. In bocca al lupo. Massimo ci ha dato l'esempio di una possibile escalation, questa è la sua esperienza, da una vita grama ma dignitosa, viveva con la pensione della madre, con qualche lavoro suo, si è trovato per adesso in un camper, passando per delle situazioni di senza dimora, e potrebbe da un momento all'altro anche lui finire tra quelle persone che vi ho descritto prima. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Io diciamo che sono dall'altro fronte, ossia diciamo da qualche settimana, anche se il primo approccio l'ho avuto l'anno scorso, faccio parte di un paio di associazioni che supportano, comunque cercano di supportare i senza fissa dimora o le persone che dormono in strada. Ecco, quindi, in che città lei vive? A Milano. Ecco, mi faccia un quadro della sua esperienza, velocissimo. L'esperienza è che noi in 2 giorni stabiliti alla settimana andiamo a trovare, diciamo, delle persone che è da anni che sono nella stessa posizione, quindi possono dormire su panchine oppure sotto le vetrine. Stranamente, quasi spessissimo è diffuso il dormire sotto le vetrine delle banche, di filiali di banche. È perché? Non so se... perché c'è la videosorveglianza, almeno se li aggrediscono c'è un deterrente, penso. Penso che sia questa la ragione, anche se stride un po' la cosa. E, diciamo che sì, il fenomeno è sicuramente in aumento, anche se quello che constato, meno nel comune di Milano, è che queste persone avrebbero anche dove andare a dormire o mangiare. E a quanto mi dicevano gli altri, perché io appunto, come ho detto, è da poco che faccio parte di queste associazioni, molto spesso non vogliono loro, proprio le persone, andare a dormire nei centri messi a disposizione dal comune. Allora, fermiamoci un attimo, voglio dare la linea. Andrea ci pone un altro problema che molte volte fa parte dei luoghi comuni. Sì, ma tanto sono persone che vogliono stare lì, sono persone che hanno sempre il rotolino con i soldi dentro la camicia, sono persone che hanno anche possibilità di fare vita agiata, ma è una loro scelta esistenziale, o hanno dei problemi di tipo psichiatrico, c'è una gamma vasta di risposte. Vedremo nella successiva parte della trasmissione se l'ospite che abbiamo ci aiuterà a dipanarne qualcuno. A tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, parliamo dei senza tetto. Molti ascoltatori hanno scritto avanzando dubbi sulla reale condizione di indigenza del nostro ospite che ha chiamato poco fa. Non sto qui a giudicare, uno mi racconta una sua vicenda, in buona fede prendo per buono quello che mi dice, è una vicenda che comunque sia, è una vicenda abbastanza ripetuta, abbastanza normale. Poi non so se fosse un approfittatore che viveva della pensione della madre o che potrebbe trovarsi un lavoro. Come me l'ha raccontato, l'ho ascoltata. Non sono un giudice, io faccio domande e ottengo risposte. Luciano Gualzetti, buongiorno. Buongiorno. È direttore della Caritas Ambrosiana. Ho citato la vostra, il risultato del vostro 15° rapporto. 4 italiani su 10 senza dimora italiani, e il 21% in più rispetto all'anno precedente. Vediamo di commentare un po' questi dati. Innanzitutto, voi che area avete, è interessata alla vostra osservazione? Ma noi presidiamo la diocesi di Milano, che corrisponde a tutta la provincia di Milano, quindi comprende la città che notoriamente attira il maggior numero di senza dimora, però c'è anche la provincia di Lecco, Varese, Monza, Brianza, un pezzo della provincia di Como, quindi sono una popolazione di 5.800.000 persone. Noi siamo presenti in 1.100 parrocchie con le nostre Caritas parrocchiali, e 370 centri d'ascolto sono quelli che, insieme al centro di ascolto milanesi, diciamo così, quelli centrali, hanno questo punto di osservazione. Senta, brutalmente, ma chi si occupa dei senza dimora? Perché la Caritas è un nome storico, che è la prima cosa che viene in mente, chiama la Caritas, la prima cosa che viene detto, si trova una persona stesa per terra, si ferma il capannello delle persone, chiamiamo la Caritas. Oltre a voi chi se ne occupa? Ma allora, se parliamo della città di Milano, ci sono molte realtà che se ne occupano, ci sono altri ordini religiosi, francescani, le suore di Madre Teresa hanno aperto delle mense che garantiscono solo nella città di Milano 6.000 pasti al giorno, dove tra l'altro vanno i senza dimora, ma vanno anche molti italiani, cioè molte persone che non ce la fanno arrivare a fine del mese poi si rivolgono a queste strutture, le mense, i centri di ascolto. Gente che ha casa, che ha famiglia e comunque viene a mangiare da voi? Sì, nelle mense ormai si presentano anche famiglie con bambini, oltre che pensionati che non ce la fanno oggettivamente arrivare a fine del mese e a sostenere un pasto caldo ogni giorno. Abbiamo il dato che ci sono dei bambini, abbiamo quantificato in circa 3.000 nella città di Milano, che non riescono a garantirsi un pasto completo se non nelle mense scolastiche. Quindi c'è una pluralità di interventi che, a fianco a tutto il terzo settore, c'è anche il Comune di Milano, che onestamente da anni sta garantendo dei posti letto. Quindi, direttore, mi faccia capire, ci sono dei bambini, lei ha detto, ha dato un numero grosso, ha detto 3.000, ho capito male? Sì, questo è il dato che è emerso da una ricerca del Banco Nel Comune di Milano, che a pranzo riescono a sfangarla perché c'è la mensa scolastica, a sera non avrebbero una cena calda se i loro genitori non li portassero alle mense della Caritas. Sì, cioè, perché è chiaro che le statistiche sono medie, eccetera, però appunto si stima che queste siano le quantità. Noi abbiamo appunto registrato un aumento dei senza tetto del 20%, la cosa ci preoccupa molto, perché vuol dire che la crisi ha colpito duro quelli che erano già poveri, ma ha colpito duro anche quelli che mai si sarebbero sognati di rivolgersi alla Caritas, e questo processo di impoverimento purtroppo sta aumentando, e noi stiamo cercando di resistere con gli strumenti che abbiamo, che vanno dalle cose più estreme, la mensa, il posto letto, fino alle cose un po' più progettuali, come, non so, abbiamo promosso il fondo famiglia lavoro per i disoccupati, perché il vero problema è quello di aumentare il reddito o ridare un reddito a quelli che l'hanno perso, e quindi cerchiamo di, attraverso la ricerca attiva del lavoro e una proposta di formazione e di riqualificazione, aiutare le famiglie che sono state colpite da questa crisi perché hanno perso il lavoro a ritrovare la vera risposta, che è il lavoro. Nel frattempo diamo un aiuto con quello che possiamo, sicuramente l'ascolto, i centri ascolto non lasciano soli le persone fino alle periferie più estreme della città di Milano, ma poi cercano di dare un aiuto con tutti gli strumenti che ci sono. Devo dire che nella città di Milano c'è una buona sintonia, un po' di anni a questa parte, anche con il Comune, che si è preso la responsabilità, ma naturalmente sono processi questi dell'impoverimento che andrebbero contrastati anche con delle politiche, non so, avevamo proposto il reddito di autonomia, cioè integrare il reddito con delle risorse, adesso arrivava appunto il sistema, il sostegno di inclusione attiva, sia da, quindi soldi freschi dal Ministero, adesso vediamo se verrà confermato, perché con tutti questi cambiamenti. Parlare di soldi pubblici in questo momento è particolarmente complicato. Intanto, però da soli non ce la facciamo. Questo me ne rendo conto. Ecco, no, questo, non può essere solo non so se posso lasciato in mano ai volontari, chi lo fa per missione, per vocazione. È un problema, quello che volevo capire questa mattina, che è un problema un po' di tutti, non è riservato soltanto alle persone che se ne occupano perché sono buoni, sono bravi o perché tanto quello devono fare. Fermiamoci un istante. Barbara, buongiorno. Buongiorno. Allora, io adesso chiamo da Calcio, che è in provincia di Bergamo. Sì. Io sono 13 anni che sono sulla strada, sono invalida civile. Ma lei da dove sta chiamando adesso? Da Calcio. Sì, ma da dove? Fisicamente dov'è? Provincia di Bergamo. Ho capito, ma è per strada, in una casa, in un... No, sono in strada io sono dentro in una cantina in mezzo al grano. C'è la radio accesa però, sento. No, una casa che non ha tetto perché è sceso tutto, scende acqua, c'è piena di umidità, io ho messo le coperte sotto, sopra, ho 25 maglioni, ho polmonite, sono dentro e fuori dagli ospedali. Ma noi come ci ha ascoltato questa mattina? Dalla radio? La radio, sì, una radiolina che mi fa compagnia. Vi ascolto tutti i giorni, tutti i programmi. Lei sono 13 anni che sta per strada? 13 anni, prima ero a Brescia, dormivo sui treni, nelle stazioni, fuori dalle stazioni perché dopo ci hanno buttato fuori, alle banche, in terra con i cartoni. Perché le banche piuttosto che un altro posto? Perché le banche, avendo le telecamere, così. Come pensavo infatti io. E adesso ho trovato questa cantina, ma la cantina ha un proprietario, se lo sanno che dorme lì la mandano via. Sì, è quella delle Ferrovie dello Stato. È infilata dentro un deposito delle ferrovie. Sì, una cosa vecchia che 30 anni fa dovevano demolire, infatti non c'è più tetto, non c'è più niente. C'è questa stanzetta che è umidissima, sono i vestiti bagnati. Da sola ci sta o ci sono altre persone con lei? No, io e il mio compagno. In due siete? A mezzogiorno dobbiamo andare a mangiare a Chiari, alla Caritas. Però il problema è il treno, perché non c'è i soldi e ti buttano dal treno, non hai il biglietto, ti buttano giù. Quindi il posto più vicino per andare a mangiare occorre il treno per andarci? Sì, è a Chiari. Altrimenti a Brescia, però solo mezzogiorno, pasti caldi la sera non ce ne sono. Perché da dormire a Brescia Chiari non lo trovate? No, assolutamente impossibile. A Brescia ci sono due emergenze freddo, però fanno il turno. 15 giorni ciascuno, perché sono tante le persone, però la mattina alle 8 ti mandano in strada e sei in strada tutto il giorno fino alla sera alle 8. E come passate la giornata voi, lei e suo marito? Girando per strada, prendendo freddo, accumulando freddo, non so più dove andare, ho fatto domande di case popolari. Sentivo stamattina che dicevano dei marocchini, ho detto porco cane, la danno a loro, non la danno a noi. E adesso ho sentito questo programma, ho detto adesso voglio proprio chiamare anch'io, fargli sapere che la povertà in Italia è tanta, tanta, ma tanta. Noi a mezzogiorno andiamo a mangiare a Chiari, se riusciamo a nascondere un panino, ce lo mettiamo nella borsa. Ma è già mezzogiorno e 45, quindi oggi non mangiate. Sì, sì, è mezzogiorno e 45, a mezzogiorno e un quarto danno da mangiare. Qui ero già passato oggi, sono i 45. Sì, ma io non sono andata perché ho la polmonite. Quindi lei è andata su, è andato il suo compagno a prendere da mangiare? No, non si può portare fuori perché dicono per questioni della ASL. E oggi cosa mangia lui? Salto, se riesce lui a portarmi qualcosa, a nascondere qualcosa, altrimenti salto. In bocca al lupo, Barbara. Grazie, speriamo che qualcosa succeda. Ci sentiamo fra un istante, 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. Il punto sui senza dimora in Italia e in generale sulle persone povere, più povere di quanto noi pensiamo che si possa essere nella vita comune, seppur in condizioni di ristrettezza, di economia, di paura di non farcela, però c'è un tetto. Ecco, la signora ci ha chiamato poco fa, viveva in un magazzino senza tetto e niente, andava errando per i luoghi in cui si dà da mangiare o i dormitori. Marco Iazzolino, buongiorno. Buongiorno a lei. Marco Iazzolino è direttore del network Housing First Italia, che si occupa appunto di trovare una soluzione alle persone come la signora che ci hanno chiamato poco fa. L'ho fatta stare in ascolto della trasmissione finora, adesso sta lei a darci dei dati ad integrare quello che abbiamo ascoltato. Siccome chiamano, mandano ascoltatori SMS increduli, secondo lei sono storie credibili quelle che abbiamo sentito? Ma le storie sono assolutamente credibili, ogni storia, come lei diceva prima, ha una sua dignità, suo perché. Alla domanda se le persone per strada sono matte, la risposta è quella che dà una studiosa americana, cioè alla fine non si capisce se le persone per strada diventino matte o siano matte per questo sono per strada, è difficile spezzare il ciclo della povertà, della grande marginalità, quindi le storie sono assolutamente credibili perché ognuno di noi anche nella vita normale, ordinaria, quotidiana cerca di darsi una spiegazione a quello che non ha spiegazione. Quindi credo che le storie che ho sentito, sia dalla parte di Massimo, di Barbara, ma anche di Andrea del Volontario, siano storie assolutamente credibili, perché questa è la realtà. Ecco, per una situazione come quella di questa signora, lei dice ho la polmonite, sto in una casa, sto in un magazzino abbandonato delle ferrovie, ha tutta una sua mappa della sussistenza, ho visto, notato, in quel posto si può andare 15 giorni, in quell'altro danno da mangiare, poi devi uscire, in quell'altro danno soltanto la cena. Diciamo, ci si organizza cercando di capire qual è la mappatura dei posti possibili, ma non esistono delle soluzioni reali e concrete, sono quelle che riuscite a dare voi in parte rispetto a questo affidarsi ogni giorno a sbarcare la giornata senza sapere cosa succederà il giorno dopo. Io credo che in questa trasmissione valga la pena dire un paio di cose in premessa e poi provo a rispondere. La premessa è che in generale il dato di Caritas Ambrosiana è valido per tutto il territorio italiano, cioè la povertà sta crescendo, ma soprattutto sta crescendo queste fasce di impoverimento che coinvolgono la classe media o l'ex classe media. Questo è il primo dato, la prima premessa. La seconda premessa... Possiamo dire che è un dato abbastanza applicabile alla situazione nazionale, anche se soltanto la Lombardia. Sì, sì, assolutamente sì. In realtà, se non voglio entrare nel dato perché il dato è più complesso del 21%, ma sicuramente c'è un incremento di povertà. Per tutti i residenti a Milano, quindi si intende i cittadini italiani e non italiani, ma che risiedono da tempo a Milano. Il dato interessante dell'indagine Istat che si fa ormai da due anni, ogni due anni, la FIOPS, la federazione che rappresento in questo contesto, di cui fa parte anche Caritas Ambrosiana, intervista ogni due anni circa 5.000 persone senza dimora per fare il punto della situazione, ci dice che la presenza di senza dimora sta incrementando, ma paradossalmente da nord a sud il problema accoglie sia persone italiane che residenti in Italia da molto tempo con le stesse cause, cioè si va per strada per malattia, soprattutto mentale, ahimè, si va per strada per mancanza di lavoro. Quindi diciamo che ha un problema neurologico, si ritrova solo quando non ha più famiglia, e se non finisce in un istituto va a finire per strada. Pronto? Ah, è caduto l'ospite, vediamo se lo riusciamo a recuperare. L'ultima frase che ha detto mi coglie abbastanza nel vivo, una cosa sempre pensato, sempre immaginato. Le persone che non hanno un'autonomia dal punto di vista della gestione dei propri rapporti, delle proprie relazioni, del mondo che li circonda, sono attualmente quelle più esposte. Se lasciate sole, il loro destino è quello proprio di vivere in maniera brada, in maniera abbandonata. Vi posso dare il segnale di qualche sms che mi sta arrivando. Continuano a scrivermi le persone, questo è anche significativo rispetto soprattutto al primo ascoltatore. Vive alle spalle della madre, è uno dei classici pelandroni. Può essere, non escludo che ci siano delle circostanze romanzesche anche nel racconto dell'indigenza, ma non per fare il buono, il pietoso, quello che a Natale vuol parlare di cose miserevoli, ma pensiamo un attimo che potrebbe accadere anche a noi. Le certezze su cui fondiamo comunque la nostra base di sicurezza, avere un tetto, un piatto caldo a casa, abiti per vestirsi e chiudere la porta, siamo a casa nostra, è qualcosa che comunque non è detto che possa rimanere in assoluto. Mariangela, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sto ascoltando con molto interesse questa, la sua trasmissione, perché in questo periodo mi sto proprio occupando di questo, del welfare d'aiuto, ma quel welfare d'aiuto immediato. Perché le istituzioni parlano di welfare d'aiuto, però io ho partecipato a molti incontri, però quando gli si chiede sì, ma se io oggi ho fame, ho bisogno di mangiare, dove vado? Ci sono solo le messe della Caritas. Allora, noi stiamo creando un progetto. È un po' il sospetto che avevo anche io. Siamo tutti bravi poi quando dobbiamo prenderci l'onere personale a dire, a fare distinguo, ma la gente non ha voglia di lavorare, ma guarda, forse non è proprio tutto così, si approfittano, sempre le solite storie. Poi alla fine, certo, se ne occupa soltanto chi lo fa per vocazione. Certamente. Come penso che faccia lei. Perché le istituzioni sono imbrigliate alle leggi, alle regole, ma chi ha fame oggi di queste leggi, di queste regole, non può dire va bene, ritorno fra un mese. Fra un mese sono morto di fame, sono sulla strada. Quindi, detto questo, oltretutto ci si è reso conto, no, io opero in questo senso in provincia, ti diamo conto che il 60% delle persone che si rivolgono alla mensa dei poveri sono famiglie italiane, sono famiglie nostre, le quali arrivano lì quando non riescono più a dare alla propria famiglia tre pasti al giorno, e prima di arrivarci, cioè passa un lungo tempo di vergogna, di questo senso di paura, e quindi arrivano e si rivolgono alle istituzioni, quali dicono sì, ma deve aspettare, compila il modo, deve aspettare, faremo sapere. In realtà questo welfare d'aiuto immediato lo danno ancora come sempre le parrocchie, passano attraverso i centri di ascolto. Noi stiamo creando un progetto che è un progetto che va a dare dignità a queste persone. In che modo? Noi stiamo creando una bottega, noi la chiameremo la bottega della solidarietà, dove daremo derrate alimentari, cioè la famiglia. Allora, facciamo così, guardi, siccome la sigla ci porta via, Mariangela, anche con Marco Iazzolino, che era caduto alla telefonata, non ha potuto concludere. Rilanciamo una seconda puntata, la fare entro breve, su questo stesso tema, visto che non lo consideriamo risolto. Quindi aspettatevi, presto torneremo su Senza Dimora, ma prestissimo, a giorni. Quindi faremo parlare Iazzolino e anche Mariangela, e anche quanti vorranno dirci qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo detto questa mattina. Alla prossima.